vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 maggio, il sole in regione sorto alle 5.43 tramonterà alle 20.25. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Le alte quotazioni dei cereali sui mercati, soia in testa, stanno condizionando le intenzioni di semina della prossima annata agraria, che vedrà penalizzate le terze colture come girasole, sorgo e colza. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che invoca una nuova transizione agricola che si tenga lontano dalle tentazioni delle monoculture. Nuove regole per gli allevatori arrivano dall'Europa e dal Ministero di Roma, soprattutto in materia di anagrafe animale. Quanto rende e quanto lavoro dà un impianto di noci è il tema sviluppato nella puntata odierna della rubrica della frutticoltura, mentre quella della ricerca universitaria ci dà i risultati di un'analisi condotta sul gradimento tra i consumatori dei vini delle cantine sociali, con rilevazioni anche in stati esteri. Parlando di cambiamenti climatici avremo poi un contributo di agroeconomia, ovvero quelle pratiche di coltivazione e allevamento legate al territorio e alla tradizione, con proiezioni anche sulla realtà regionale. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Come ogni primavera, Vita nei Campi ritorna anche con la puntata dedicata alle intenzioni di semina per la prossima annata agraria. Lo facciamo con Daniele Castagna, vicepresidente della Cerealicola Vieris e di Confcooperative del Friuli Venezia Giulia. Si deve partire quest'anno dalle quotazioni dei cereali, perché stanno determinando proprio le intenzioni che i coltivatori hanno su cosa mettere nei loro campi. Cominciamo allora con il caso soia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'esplosione del prezzo della soia. Siamo passati dai 400 euro circa a tonnellata di fine campagna ai 705 di Bologna ieri, quindi vuol dire, se non proprio un prezzo raddoppiato, ma quasi, con quotazioni storicamente mai raggiunte negli anni scorsi. Questo sta determinando delle scelte importanti sulle semine, ecco. E di soia in Friuli Venezia Giulia non ce n'è più. Come mai questo rialzo del prezzo? Solo perché la soia mondiale è rastrellata tutta dalla Cina, oppure per la nostra soia c'è qualche motivazione particolare? Sicuramente aiuta il fatto che la Cina abbia rastrellato tantissima produzione sia americana che brasiliana. In più, forse una delle prime volte in cui la nostra scelta di produrre OGM free, in questo momento in cui il mercato non è in grado di offrire prodotti OGM free, sta pagando la nostra scelta politica negli ultimi 20 anni. E quindi quest'anno soia a tutta birra. E chi ne rimette, tra virgolette, nelle semine? Allora, le previsioni di semina prevedono un aumento della superficie a soia che probabilmente si aggirerà sul 15%, per arrivare forse anche al 20, io penso si fermi al 15. In ettari? Forse vicino ai 60.000 ettari, se teniamo conto anche quelli che poi seguiranno, forse anche di più se teniamo conto di quelli che seguiranno la coltura dell'orzo e del frumento come secondo raccolto. A scapito di chi? A scapito in parte del mais, che nonostante prezzi che ben tenuti, perché oggi la quotazione di Udine si aggira intorno ai 25-26 euro a quintale, quindi 250-260 euro a tonnellata, nonostante questo ci sarà probabilmente un calo della superficie mais stimabile intorno al 4-5%, per cui scenderemo in maniera abbastanza definitiva sotto i 50.000 ettari di mais, attestandoci sui 47-48.000 ettari, ma soprattutto l'aumento della soia sarà a scapito di girasole e sorgo, le cosiddette terze colture, che quest'anno sono completamente sparite o proprio andate ai minimi termini. Come la colza? Come la colza, ecco, la colza già ne vediamo gli effetti, ne è seminata poca, con caratteristiche abbastanza per adesso non ottime, basta guardare il giallo poco intenso che si vede nelle nostre campagne per dire che non sta sfiorendo bene anche a causa di questo freddo che ne sta rallentando la fioritura. Foraggere, capitolo, sono sempre più neglette. Le foraggere sono sempre costanti nei suoi numeri, con leggeri cali. C'è stata una ripresa alcuni anni fa dovuta alla parte green prevista dalla normativa PAC. Adesso siamo, gli ettari sono più o meno sempre quelli legati chiaramente direttamente alle stalle. Le stalle non aumentano purtroppo di numero, anzi sono destinate purtroppo a calare come numero, per cui anche le foraggere probabilmente seguiranno questo destino. C'è qualche coltura alternativa, magari di nicchia, che sta facendo capolino con un po' più di forza delle altre? Ma sulle colture di nicchie noi come cooperativa stiamo portando avanti un progetto abbastanza importante con l'orzo da birra. Quest'anno ci sono seminati circa 1100 ettari di orzo da birra, con produzioni interessanti e con interesse da parte del mercato dei maltai e anche dei birrifici, per cui è un progetto che sta andando avanti e noi lo portiamo avanti volentieri, anche perché sta dando abbastanza dei bei numeri alle nostre aziende agricole. Ecco. Se l'ha visto un po' di sorgo? Il sorgo era un'alternativa nelle zone non irrigue al mais e alla soia, perché è una cultura molto più rustica, ma con questi prezzi di mais e soia probabilmente le aziende agricole hanno scelto di rischiare. Serve una transizione agricola verso un'altra agricoltura, ma con quali soldi? I fondi ci sarebbero, i 400 miliardi della PAC, cui si potrebbero aggiungere quote del Recovery Fund. Ma Enos Costantini in questo corsivo non pare molto ottimista, non stiamo mica parlando di salvare il sistema bancario? Negli anni 60 e anni finitimi abbiamo speso di quel poco denaro pubblico per passare dalla zappa al trattore, senza neanche un requie per la civiltà contadina e senza il minimo ripensamento per il disfacimento di un tessuto sociale. Si trattava di fare gli interessi dell'industria e lo abbiamo fatto. Il futuro sembrava glorioso, in parte lo fu. Ora però il passato, cioè l'ex futuro, presenta il conto. È tempo di reperire denaro non per un'altra rivoluzione agricola, ma per una transizione, sostantivo fin troppo alla moda ma che rende l'idea, verso un'altra agricoltura, tenendoci il trattore ben inteso, ma bisognerà passare dalla monocoltura alla policoltura. Bisognerà chiedersi se sono meglio 1000 ettari con un solo paron che fa una cosa soltanto, oppure 50 aziende familiari da 20 ettari cada una che fanno un po' di tutto. Attualmente almeno un camion su 4 trasporta alimenti dalle Alpi alle Piramidi e dal Manzanar al Reno. Quindi è auspicabile regionalizzare le produzioni e i commerci. Soldi per fare una riconversione ci sono, 400 miliardi o quasi soltanto di PAC. E poi c'è il recovery, di cui tanto si parla e di cui nulla si sa. I notiziari dedicano ancora metà del loro tempo all'industria del balon e l'altra metà ad aneddoti poco edificanti di figuranti della politica. Se ancora una volta pioverà sul bagnato, arriveremo al punto di non ritorno. Vediamo i costi per una riconversione, chiamatela pure transizione ecologica dell'Europa. La Commissione europea ha calcolato che per ridurre dell'80% le emissioni di gas a effetto serra, da qui al 2050, il costo annuo equivale al 2-3% del PIL. Secondo un'altra valutazione, dovremmo impiegare l'equivalente del 2-3% del PIL per 10 anni, ciò che corrisponderebbe a 3.000 miliardi in un decennio. Per dare un ordine di grandezza, ricordiamo che dal 2008 gli Stati europei hanno già messo a disposizione delle banche l'equivalente di 4.000 miliardi. E ricordiamo che la BCE ha creato 1.000 miliardi di euro tra il dicembre 2011 e il febbraio 2012, sempre col fine di salvare le banche. La transizione ecologica di tutta l'economia europea costerebbe meno del salvataggio del sistema bancario. Ora però bisogna pensare al salvataggio del pianeta partendo dall'agricoltura, però, quella cosa, l'agricoltura, che fa cose che si mangiano. l'Unione Europea adotta nuove regole in tema di sanità animale. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo quali sono le conseguenze immediate per i nostri allevatori. Il 21 aprile scorso è entrato in vigore il regolamento comunitario 429, che in realtà è del 2016. È un corposo testo unico che riunisce tutte le norme in tema di salute animale che in precedenza erano sparse in vari regolamenti e direttive. Più di recente però sono stati pubblicati i regolamenti delegati di esecuzione che precisano le misure di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e le disposizioni per l'identificazione e la registrazione degli animali nelle anagrafi zootecniche. Ora, come sappiamo, i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili negli Stati membri, ma ci sono comunque alcuni aspetti che dovranno essere definiti a livello nazionale. Il Ministero della Salute ha emanato una circolare nella quale annuncia l'uscita di due distinti decreti delegati che aggiorneranno, oltre alle misure di biosicurezza e al funzionamento delle anagrafi, anche le sanzioni amministrative. Nel frattempo, come devono regolarsi gli allevatori? Nell'immediato la cosa più importante da sapere è che a partire dal 21 aprile scorso deve essere rispettato tassativamente il termine massimo di 7 giorni per la registrazione e la trasmissione alla banca dati zootecnica delle movimentazioni, nascite e decessi dei capi di bovini, ovicaprini e suini. Diversamente, in attesa dei decreti attuativi, le autorità veterinarie applicheranno ai ritardatari le sanzioni che peraltro sono già previste. Oltretutto, dopo la nota del Ministero della Salute, anche AGEA si è affrettata a specificare che il rispetto dei termini di registrazione costituisce criterio di ammissibilità per i premi accoppiati del settore zootecnico, per cui alle sanzioni specifiche si aggiungono anche decurtazioni nei pagamenti della PAC. Perché tutta questa attenzione sulle anagrafe zootecniche? Conoscere in tempo reale la consistenza degli allevamenti ed essere in grado di tracciare le movimentazioni dei capi di bestiame è un elemento di primaria importanza per la prevenzione e il contenimento delle malattie infettive. Ne cito solo alcune a titolo di esempio: la peste suina africana, la blue tongue, in italiano lingua blu, che affligge bovini e ovini, la malattia emorragica virale dei conigli e l'influenza aviaria, che potenzialmente è pericolosa anche per l'uomo. È un concetto elementare che anche tutti noi abbiamo sperimentato in questi mesi di pandemia SARS-CoV-2. Seconda puntata con il professor Raffaele Testolin, dedicata al noce, al suo impianto, potatura, malattie e anche rese economiche. Si pianta usando distanze molto larghe, 7 metri tra le file e da 4 a 6 metri sulla fila. Si mettono a dimora piante in vaso micropropagate di 6 mesi. Piante più grandi non servono, non si guadagna tempo e si buttano via soldi, come dice il mio amico Eugenio Cozzolino, grande esperto di noce. Si allevano le piante ad asse centrale, in cui si sviluppano 6 branche a lunghezza decrescente dal basso verso l'alto. La potatura di allevamento è minima, ma richiede alcuni accorgimenti. Una volta messo a dimora l'astone, questo viene cimato alla fine del primo anno a 1,80 m. Un piccolo accorgimento al secondo anno. Dove si devono formare le branche, la gemma principale viene eliminata con un coltellino a favore della gemma secondaria, che darà un germoglio più aperto. Una volta realizzata la struttura della pianta, la potatura si limita ad eliminare i rami e le branche deboli e in deperimento. Parliamo anche di soldi. Quanto rende un impianto di noci? 4-5 tonnellate per ettaro in piena produzione, ma un bravo coltivatore, usando le varietà che producono anche sui rami laterali, può arrivare a 8-10 tonnellate per ettaro. A 5-6 euro al chilogrammo per noci sgusciate parliamo di 20.000 euro ad ettaro per i produttori meno bravi, una rendita che può salire fino a 30-60.000 euro per i più bravi. Molti ascoltatori avranno notato che in certe annate molte noci hanno il verme. È un problema. E se si vuole mangiare noci bisogna trattare contro il verme. Un paio di trattamenti a stagione sono sufficienti, ma bisogna farli al momento giusto. Il servizio fitosanitario dell'ERSA può venire incontro monitorando i voli primaverili dell'insetto e avvertendo sul sito web quando è il momento di trattare. Oggi Silvia Stefanelli per la rubrica dei cambiamenti climatici ci parla di agroeconomia, ovvero quelle pratiche di coltivazione e allevamento legate al territorio, combinando conoscenze scientifiche e prassi tradizionali, innovazione e conoscenza locale. Oggi parleremo di agroecologia, un sistema di produzione agricola che si basa sui principi dell'ecologia trasferiti al settore agricolo, zootecnico e forestale. L'agroecologia individua pratiche di coltivazione e allevamento legate al territorio, combinando conoscenze scientifiche con pratiche tradizionali, innovazione e conoscenza locale. Inoltre è pensata per dare più potere ai produttori e alle comunità dove operano, invece che alla parte finale della filiera di distribuzione. Ma quali sono i principi fondanti? La diversità. I sistemi agroecologici sono caratterizzati da un'alta diversità, in contrasto con la semplificazione della monocoltura. Per esempio, nella regione Friuli Venezia Giulia, terreni destinati all'agricoltura biologica, si praticano la rotazione e l'avvicendamento tra colture articole e seminativi, come il frumento, il farro, il mais. Altri esempi, sempre in Friuli, sono il sovescio delle leguminose, a cui segue poi a fine luglio la semina delle orticole. Un altro principio è il riciclaggio. Nell'agroecologia spesso i residui colturali vengono macinati e interrati, ripristinando il tenore di nutrienti asportato con la raccolta. E infine la resilienza. L'agroecologia applica sistemi di coltivazione più resistenti ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi, ai parassiti, quindi alle siccità. Nella nostra regione ci sono molte opportunità di mettere in pratica delle forme di agroecologia, per esempio il pascolo in foresta. In una regione coperta per il 40% da boschi, già ora ci sono delle piccole aziende che praticano il pascolo caprino in foresta, con ottimi risultati anche nella qualità dei prodotti caseari. Ma ci sono anche molte opportunità offerte dagli imboschimenti eseguiti alla fine degli anni 90 e che possono essere destinati al pascolo estensivo di suini e ovini in foresta. Altre opportunità sono offerte dall'olivicoltura all'avicoltura, dove si possono consociare colture multiple come foraggere, ortaggi e cereali, tutte pratiche già sperimentate in altri paesi. Infine anche i pioppeti, un paesaggio caratteristico della bassa pianura friulana, ma una forma di arboricoltura molto intensiva, può essere ripensata con delle forme di consociazione tra querce e cereali. Sono pratiche già messe in atto, per esempio in Veneto, con molto successo e supportate dai fondi del Piano di Sviluppo Rurale. Per la rubrica dell'Università della Ricerca, oggi con il professor Francesco Marangon, che all'Ateneo Udinese insegna economia d'estimo rurale, parliamo di una sua recente indagine tra i consumatori sul tema delle cantine sociali. Cosa è emerso, professore? Abbiamo avuto l'opportunità di fare un'indagine ad ampio spettro, perché oltre ad ascoltare i consumatori del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni italiane, siamo andati anche a curiosare all'estero e abbiamo scelto alcuni paesi. Il primo, la Slovenia, perché il progetto di ricerca di cui parliamo in questo momento, gli esiti di questa indagine fanno parte di questo lavoro, sono concentrati proprio sulla cooperazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia, ma abbiamo voluto sentire anche i consumatori in Germania, Gran Bretagna, in Spagna e in Francia. Insomma, abbiamo raccolto 3.700 interviste circa un anno fa, diciamo all'inizio del 2020, quindi siamo pre-pandemia. Che cosa è venuto fuori e soprattutto che cosa abbiamo chiesto? Noi abbiamo cercato di esplorare questa volta, ed è una indagine abbastanza innovativa, di capire quanto siano conosciuti, apprezzati, acquistati i vini prodotti dalle cantine sociali. Ora, il risultato è che in Friuli Venezia Giulia, gli oltre 400 che abbiamo intervistato in Friuli Venezia Giulia, sono molto molto attenti a questa tipologia di prodotto enologico, abbinato ad alcuni aspetti come quello della provenienza delle uve dal territorio regionale, ed è una preferenza che anche li accomuna, i regionali, alle indicazioni e alle preferenze del resto dell'Italia e anche dei consumatori tedeschi, meno invece in Gran Bretagna e in Spagna, e ancora una certa attenzione al vino prodotto dalla cantina sociale, quella che emerge in Francia e in Slovenia. Quindi ci sono interessanti margini di lavoro su questo tipo di prodotto, in particolare, tornando alla cooperazione italo-slovena, proprio cercando di mettere in rete, in modo transfrontaliero, le cooperative, e ce ne sono di importanti, dei due territori, dei due paesi. Quindi l'istituzione cantina sociale regge? L'istituzione regge, e direi che anche durante questo periodo di crisi è stato un esempio di capacità di resistenza alle crisi che il mercato enologico ha vissuto e sta vivendo. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi in netto rialzo. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 25,80 e 26 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 23,10 e 23,40, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 20 e 50 e 21 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,40 euro e il frumento di 3,70 al quintale. Contrattazioni discrete all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in movimento. L'insalata gentile viene quotata tra 1,50 e 1,60 euro al chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero e le zucchine tra 1,30, i cavoli tra 1,30 e 1,60. La scalora riccia, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso si quotano da 2,90 a 3 euro, gli aspargi bianchi da 3,50 a 4,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo ancora non favorevoli, temperature fredde mattina e sera, i prezzi sono lievemente in salita. La cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunari, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 22 a 35 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 7 a 25, le mazzancolle da 32 a 39, le seppie da 7 a 11, le canoce da 5 a 15, le orate da 7 a 18, le passere da 14 a 17, le capesante da 11 a 15, i folpi da 9 a 12, e i gamberetti da 13 a 16. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora cenni di pesantezza con prezzi diversificati. I poli a terra vengono pagati tra 1,06 e 1,08 il chilo IVA esclusa, le anatre da 2,45 e 2,49, i tacchini maschi da 1,26 e 1,28, i conigli oltre 2 kg e mezzo in calo tra 1,68 e 1,74 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanutto diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Una marcata rimonta anticiclonica interessa l'Europa fino a lunedì, con aria più secca e progressivamente più mite in quota. Domani sarà ancora una giornata di relativo bel tempo, con cielo sereno sulla costa, poco nuvoloso sul resto della regione e venti a regime di brezza. Sui monti sarà possibile locale maggiore nuvolosità e ad alta quota soffrirà vento da moderato a sostenuto da sud-ovest. Le temperature massime saranno attorno ai 23 gradi in pianura. Martedì e mercoledì un deciso fronte atlantico con forti correnti meridionali interesserà l'Italia, inizialmente sulle Alpi occidentali, poi anche su quelle orientali. Tuttavia l'evoluzione del fronte non è ancora ben definita. Martedì mattina avremo probabilmente ancora cielo poco nuvoloso, ma con rapido e progressivo aumento della nuvolosità. In giornata nuvoloso coperto, con la possibilità di qualche pioggia sparsa e qualche rovescio. Dalla sera peggioramento, con piogge più abbondanti e diffuse. Mercoledì sull'Alto Adriatico si formerà una depressione che poi si porterà sui Balcani. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con piogge intense e anche temporalesche, specie su pianura e costa. Sulle zone più interne della Carnia le piogge potrebbero però essere meno abbondanti. Giovedì l'Europa rimarrà in una vasta zona depressionaria e la giornata sarà fresca, con tempo incerto, cielo nuvoloso e qualche pioggia sparsa o qualche rovescio. Venerdì le schiarite saranno via via più vaste e persistenti, temperature in aumento, anche se non sarà esclusa qualche locale pioggia pomeridiana sui monti. Nel fine settimana le temperature potrebbero aumentare, ma vista la stagione si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: mai non le fura il fi, mai non è lune di mai, ovvero mai non ci sono i fichi se non c'è la luna di maggio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Miccoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.